finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere Bene. Torniamo in onda questa settimana, ma come facevamo un paio d'annetti fa, non dagli studi della radio, bensì da quel luogo remoto che si chiama appunto remoto, anzi proprio per dirla precisamente da remoto, tutto attaccato. E quindi anche se non fisicamente negli studi della radio, anche se da remoto, siamo qui comunque a occupare un pezzo della notte di Radio Onda Rossa, quella a cavallo fra il mercoledì e il giovedì notte, a dire il vero. Di mercoledì ne rimane ben poco. Noi comunque vi accompagneremo per un pezzo di questa notte di Onda Rossa, perché quando poi Onda Rossa non si interrompe, continua a trasmettere pur nelle difficoltà, ringraziamo difficoltà che si superano sempre grazie al vostro contributo, anche non solo quello economico, che come sapete è impellente e costante nei 45 anni della radio, dal 1977, senza fare un minuto di pubblicità, senza prendere soldi da partiti o partitini, ma vivendo grazie a quelli che sono i nostri contributi, il vostro appoggio di ascoltatrici, ascoltatori e tutte le declinazioni che vi stanno più a genio. Vi ricordiamo il conto corrente postale di Radio Onda Rossa 6180401 da intestare a Cooperativa Culturale del Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. Con questo vi abbiamo detto anche qual è la sede della radio, l'indirizzo. Se volete venire a trovarci per darci il vostro contributo, non solo economico, appunto, vi ricordiamo come da spot che è uscita la scarciata ormai da un bel po', si trova sui banchetti della radio, ce la chiedete, peraltro si trova in radio soprattutto, quindi basta salire al primo piano di via dei Volsci e accattarvi. Casa ogni tanto remoto, ogni tanto c'è qualche problema tecnico, comunque parleremo poco in questa puntata, ve lo diciamo fin da subito, perché sarà quella che volevamo nominare, avremmo intenzione di nominare The Papyrus Legacy, e cioè un po' quello che è l'eredità di tanto tempo proprio passato a trasmettere da remoto. E quindi prima di dirvi tutto, di dirvi questo, vi volevamo ringraziare per il contributo non solo economico che ci date, ma anche di vera e propria energia nel voler continuare a fare le cose, e ringraziare quindi tutte coloro che sono intervenute serata della SNIA. Sì, della SNIA, scusate. Sì, anche quelli che sono intervenuti nella serata della SNIA. Ovviamente, che poi verrà ripetuta in questo gennaio, non saprei, adesso magari verifichiamo. Diciamo la serata dello strike, dove serata dove è ritornato un sound system a suonare per la radio, e questa è una cosa che, come dire, ci ha colmati. Era tanto tempo che un sound system non suonava, non si impegnava per Radio Onda Rossa, un sound system autocostruito che è andato avanti per tante ore durante la notte di strike. E iniziamo stasera, prima ancora del Cryptovirus Legacy vero e proprio, quindi di una raccolta così di tanti spezzoni, per un, se non altro, di Cryptovirus, con una proposta, dai. There were strange animals before the flood. Walking fishes, flying reptiles. It was shaking ground and it was my world. Before the flood. Before the flood. Before the flood. There was no girl with a smoking gun before the flood. Before the flood, me and mom in the living room before the flood. Before the flood. Me and grandma, man on the moon before the flood. Before the flood. Before the flood. Before the flood. Before donkey stuck during the flood. Nuova, uno strano modo, forse quello proprio della nostra generazione, di comunicazione lenta, di passaggi di informazioni che permettono, richiedono un elemento anche di così, di riflessione, di pause per pensare, di tempi lunghi. Si tratta di Roberto Falconieri, ci siamo incontrati così con lui virtualmente, ma anche questo comunque siamo capaci a fare noi di questa generazione. Ci ha mandato un po' di proposte, questa volta mi pare su disco, sì, su disco. Un CD, stavolta è invece pervenuta una lettera inviata a mano, che già questo deponeva assolutamente a favore di un passaggio radiofonico, ma anche di più ovviamente. E poi una pennetta dove invece c'è un disco, come avete potuto ascoltare, ben fatto, ben registrato. E quindi una prossima puntata di 25 O'Clock ce lo ripromettiamo, cercheremo di ricontattare Roberto Falconieri per farci raccontare un po' di questo lavoro. Che si chiama Skullcracks High Times. Before the Flood, la prima traccia, quella di apertura di questo lavoro a due facce. Allora, dicevamo, contatti della radio, noi li abbiamo dati durante la sigla, ci siamo dilungati e prolungati. www.androsta.info per le vostre comunicazioni email, 0649175050, ripetete il telefonico della radio, ma non risponderà nessuno in questo momento, poiché questa trasmissione va in onda da un luogo lontano che si chiama da remoto. Tutti i social che sono utili per comunicare con la radio, più o meno li sapete tutti, e ancora www.androsta.info troverete tutte le informazioni, podcast della radio e di quello che è saliente, che la radio manda in onda, i redazionali, le rassegne stampa, i podcast delle trasmissioni della radio. E per questo spazio, se ci vuoi insultare, 25 o'clock@androsta.info, la mail di 25 o'clock. Allora, siamo al 2020. Sì, era più o meno verso la fine del primo lockdown. Non abbiamo esattamente la data della produzione del file. Una delle cose così che ci siamo più divertiti a confezionare è un estratto, perché ci dilettavamo appunto nel fare delle lunghissime manipolazioni, 40, 50, 60 minuti, un'ora, ne abbiamo fatte anche di recente, e da queste però creavamo un estratto proprio per magari riascoltarlo, perché quel pezzetto ci sembrava compiuto di per sé, quindi... Tanto così, per andare indietro nel tempo, per raccontare, per segnare il momento in cui, storico, in cui questa roba, questa produzione è uscita fuori. Quindi dicevamo, fine più o meno del primo lockdown, psychedelic complotto trip virus dalle produzioni di 25 o'clock, da remoto stanotte, dai. una quarantena sul cibo, l'acqua e i minerali. Il comandante Conti ha imposto una quarantena sul cibo, l'acqua e i minerali. Conducendo un severo controllo prima di dare il via. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. E uno per la mente di una psiconiana. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. Ferita da laser. Una specie di zona vivente isolata. E uno per la mente di una psiconiana. finiva con tipo bene, la quarantena è finita. Quasi così, un apostrofo liberatorio, affinché ci si potesse rivedere e bere qualcosa insieme. Ci siamo voluti poi tanti mesi affinché la situazione, diciamo, si normalizzasse. Nel frattempo ascoltiamo April Lavigne, Laghetto. E appunto, a proposito di pandemia e 2020, proprio all'inizio, allarmismi e panico, era così un po' una sensazione quella che avevamo, che la situazione, dato lo stato della modalità di comunicazione propria di questa società, non sarebbe potuta essere una comunicazione piana, chiara, razionale, raziocinante, ma come è il nostro modo di comunicazione e informazione non poteva che essere invece emotiva e allarmistica e gridata e strillata, perché questa è la modalità. E quindi allarmismi e panico proprio a inizio pandemia. La massa è pirla, non seguirla. Passano tante informazioni attraverso il televisore, i giornali. Passano tante informazioni attraverso il televisore, i giornali. Televisore, i giornali. Televisore, i giornali. Gli esperti. Allarmismi e panico. Passano tante informazioni. Passano tante informazioni. Televisore, i giornali. Gli esperti. Delle informazioni attendibili. Televisore, i giornali. Gli esperti. Delle informazioni attendibili. Allarmismi e panico. Tutte le rassicurazioni. Gli esperti. Gli esperti.

Chi sei, veramente? Sono il servo del potere che si nasconde dietro il nulla. Ho l'incarico di uccidere il solo in grado di fermare il nulla. Sono il servo del potere che si nasconde dietro il nulla. Agli stessi allievi durante la settimana di prova e oltretutto dopo l'orario consentito. Vorrei rispondere alle accuse una alla volta, se possibile. Questo potrai farlo a tempo opportuno. Andiamo avanti. Secondo, per il quinto consecutivo semestre il gruppo Delta ha ottenuto un punteggio sostanziosamente al di sotto della media. Beh, metà dei gruppi non ha raggiunto la media l'anno scorso. Tu parlerai quando ti sarà chiesto di parlare. Andiamo avanti. Terzo, il gruppo Delta ha fornito ai suoi membri pericolosi medicinali stupefacenti, in particolare durante... No, questo non è vero! Chiudi quella boccaccia! Dicevo, durante il periodo degli esami. E recentemente ha organizzato un toga party, di cui ci sono giunte dozzine di rapporti circa atti di perversione individuale, così riprovevoli e disgustosi che preferiamo evitare di descriverli in questa sede. Queste sono le accuse, come enunciate in questo giorno 15 novembre 1962. Mi firmo in fede Douglas G. Niedermann, rappresentante l'accusa. Bene. Robert Hoover parlerà a nome del gruppo Delta. Non credo che si possa giudicare un intero gruppo senza tener conto delle qualità positive di ciascun membro di esso. Noi del Delta abbiamo una lunga tradizione, sia come singoli membri che come comunità nel suo insieme. Io ho già ascoltato abbastanza questo. Mi era stato detto che potevo... Basta così. La corte prenderà le sue decisioni. Senti, tu hai detto... Lui ha detto basta così. Sei sordo forse. Dobbiamo arrivare alle conclusioni. Compagni! Dobbiamo stare a sentire ancora per molto? C'è un punto che vorrei precisare. Credevo che dici. Signore e signore, dove vorrà arrivare? Qui la questione non risiede in qualche regolamento non rispettato o in certe libertà che qualcuno di noi si è preso con le nostre ospiti femminili. Perché è vero. Ma non si può ritenere un intero gruppo responsabile del comportamento di pochi individui malati e pervertiti. Perché se così fosse, non dovremmo forse dare la colpa alle strutture stesse del college? E se le strutture stesse del college risultassero colpevoli, non sarebbe come mettere sotto accusa le stesse istituzioni educative? Io lo chiedo a te, Greg. Non corrisponderebbe in questo caso a mettere sotto accusa l'intera società americana? Beh, tu puoi pure pensarla come credi, ma noi non permetteremo che qui si getti del fango sul buon nome degli Stati Uniti d'America. Ho finito! Degli Stati Uniti d'America! Degli Stati Uniti d'America! Degli Stati Uniti, degli Stati Uniti d'America! Ho finito! Degli Stati Uniti d'America, i getti del fango sul buon nome, ma noi non permetteremo che qui si getti del fango sul buon nome, ma noi non permetteremo che qui si getti del fango sul buon nome, ma noi non permetteremo che qui si, ma noi non permetteremo, ma noi non permetteremo, ma noi non permetteremo, ma noi del fango, i getti del fango, i getti del fango, uniti gli Stati Uniti, degli Stati Uniti, degli Stati Uniti, degli Stati Uniti d'America. Degli Stati Uniti d'America, degli Stati Uniti d'America, degli Stati Uniti d'America, degli Stati Uniti d'America, degli Stati Uniti d'America, degli Stati Uniti d'America, degli Stati Uniti d'America, degli Stati Uniti d'America, degli Stati. Mi era stato detto che potevo... Basta così. La corte prenderà le sue decisioni. Senti, tu hai detto... Lui ha detto ma... Senti, tu hai detto... Lui ha detto ma... Senti, tu hai detto... Lui ha detto ma... Senti, tu hai detto... Lui ha detto ma... Senti, tu hai detto... Lui ha detto ma... Senti, tu hai detto... Lui ha detto così. La corte prenderà le sue decisioni. Mi era stato detto che potevo... Basta così. La corte prenderà le sue decisioni. Mi era stato detto che potevo... Basta così. La corte prenderà le sue decisioni. Robert Hoover parlerà a nome del gruppo Delta. Non credo che si possa giudicare un intero gruppo. Non credo che si possa giudicare un intero gruppo. Non credo che si possa giudicare un intero gruppo senza tenere. Non credo che si possa giudicare un intero gruppo senza tener conto delle. Non credo che si possa giudicare un intero gruppo senza tener conto delle. Non credo che si possa giudicare un intero gruppo senza tener conto delle. Non credo che si possa giudicare un intero gruppo senza tener conto delle qualità positive.

E quindi il remix di Fat Boy Slim, Star 69 Express, 2YM, DNM 69M Remix. Con alterazioni prodotte da grandi classici. Della modulazione di frequenza, dicevamo, ormai 30 minuti dopo la mezzanotte, direi di proseguire con questo Trip Virus Legacy. Però prima un po' di serietà, come dire, a forra d'arresto, a forra d'arresto dalla Sardegna, a questa burrumballa, e poi a seguire Black Violenza Disobbedienza Trip Virus, che invece veniva proprio, se ricordate bene, nel periodo di Black Lives Matter, quando negli Stati Uniti, anche per la contemporanea presidenza strafottente di Trump, oseremo dire, si utilizzava così la polizia per reprimere le manifestazioni che nascevano proprio dall'opposizione a quella che è una vera e propria strage silenziosa da parte, che lo era insomma fino a quel momento, strage silenziosa di persone di colore, persone nere, che per vari motivi a vario titolo venivano così massacrate, ammazzate per strada. Va bene, dai, burumballa da fora atrás e poi Black Virus Disobbedienza Trip Virus. What?

Venezia che affonda, la neve rossa del Golgota. Mostrami dove la 87.9 della mutazione di frequenza della banda romana e laziale Radio Onda Rossa, 25 o'clock i controlli quando ormai è notte fonda. Siamo entrati, abbiamo girato abbondantemente la boa del giordi. Quindi vi abbiamo proposto Supernova 2.0, così l'abbiamo chiamata noi. Potrete andare tranquillamente a cercarvela su internet e andando a digitare la morte Supernova. E potrete ammirare quindi il video prodotto da Ciccio Alessandro. Ben fatto, sì, lo abbiamo ascoltato in cuffia così, in una condizione di maggiore attenzione anche tecnica, quindi in qualità audio superiore, insomma, e senz'altro. Come dicevamo proprio con loro in trasmissione, descrivendo il lavoro fatto con una qualità insomma non proprio demo, ecco. Quindi si può trovare il video impreziosito, come dire, da dancing, dalla coreografia di Sabrina Giordano. Trasmissione peraltro quella con il ritorno della morte, che ancora non abbiamo pubblicato sul sito, e ce ne scuseranno Ciccio Alessandro, e ce ne scuserete tutti voi al più presto, quando avremo così un attimo di tempo per prepararla bene, magari riusciremo a pubblicarla finalmente. Il podcast è avvenuto alla fine di dicembre, insomma intorno al 20 dicembre, siamo veramente in ritardissimo. Cobol Pongide pronto dall'altra parte, poi finale con uno oscillator più la telefonata, sempre una produzione Velester da noi artefatta. E passiamo a Come Andromeda, che ci sembrava una degna prosecuzione di Supernova. We'll be right back. notte c'è qualcuno là. Perché non... Si sente? Si sente una presenza, io lo so. Attacco, eh? Io attacco. Pronto? Sì. Oh, quando... Sì, sì. Guarda, io... No. Insomma, quanto te servi? 5 milioni? Sì, quello si può fare, ma sai quanto prende? Di interesse. Sai quanto prendo d'interesse? Quanto prendo? Di interesse. 90% a 2 mesi. D'altro canto il denaro costa. Mica non si trova mica sotto un mattone. Mette GLR, ci mette l'IVA. Mi dispiace proprio. No, non posso proprio fare. 90% a 2 mesi. No, il 2% a 90 mesi. No, il 90%. Guarda, non mi chiedere proprio una mesa di meno, non mi conosce. Siamo presi così. Così siamo presi. Va bene? Ma nemmeno se cammini sui carboni ardenti. Non posso fare una mesa di meno. O è così, o te l'avevo detto che non... Così, vabbè, a queste condizioni? Va bene, ci vediamo al bar fra 5 minuti, d'accordo? Ciao, ti scordai i cambiali, eh? Ciao mamma! 97.9 della modulazione di frequenza della banda romana laziale, questa è Radio Onda Rossa, questa è 25 o'clock, ormai vicini all'una di notte. Lasciamo quindi questa oscillator più la telefonata, ancora una produzione Bellester artefatta con la telefonata, classicissimo di Gigi Proietti. Questa manipolazione andò in onda ovviamente alla morte di Gigi Proietti. Con questo quindi andiamo verso la conclusione. Promise I keep walk love one day. Gotta talk about love. You say you love, why can't you show love? Every day by day people talk about love. Yeah. Only me is yeah, one day. I promise I keep walk love one day. Dicevamo, andiamo verso la conclusione. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretto a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, in Italia, arresti domiciliari. Tutti quelli e quelli costretti a condizioni di limitata libertà personale, dicevamo, compresi i decreti amministrativi, che ci costringono a così. A obblighi di residenza o di lavoro, eccetera. Nuova linfa vitale per il 41 bis, ovviamente, dai fatti di cronaca. Mentre c'è chi muore in carcere o si lascia morire per cercare di mettere un freno, un fine a questo abominio, che è un abominio democratico. Noi vi lasciamo quindi con Ulumizze Ofe. La programmazione della radio riprenderà in diretta domani mattina. Vi lascio in compagnia della compagna automatica Sonata, con le sue bizzarre selezioni musicali e le repliche. E la notte si riprende, diciamo, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina. I redazionali della mattina dalle 10 fino all'incirca alle 12:30. Pausa, poi alle 14 alle 15 tutta scena cinema. Alle 16 Attica e Blues, oltre al Black Music. Alle 17 La Schiena del Sol, Tabula Rasa, trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa. Dalle 20 alle 22 Cuginetti d'Apostasia. E così si conclude il palinsesto di oggi, giovedì 19, penso, di gennaio 2023. Ci risentiamo mercoledì prossimo su queste frequenze. Vi raccomandiamo di rimanere su sugli 87.9 di ascoltare la radio e di sostenerla. www.darossa.info. Dai a tutti e a tutte, bella, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. We need the love, tell Richard, let's live together. Let's live with unity, we know the freedom. In sick of liberty, got a family in Nigeria. We trust in Europe to pull for the tip. Just to make things work up fine, for us to live fine. Just to make things look good, for us to live in a good condition. Good environment, good facility, electricity. Let's make one mind and live together. Peace of mind, let's live with a peace of mind. With unity, take my fall. Africa to the world, Africa to the world. Olu Messi Miso, Bravo Neo. Got it, got it. I'll share our dreams under a communist moon.